Per amore di Tamà si astenne dal vederla fino al giorno stabilito per il matrimonio, il quale ebbe luogo nello stesso albergo dove già si era svolta la cerimonia del fidanzamento. Nei medesimi curiosi locali, mezzo giapponesi e mezzo stranieri, trovò in attesa la medesima folla. Comparvero il signor Muraki, sua moglie, e Shio con una donnetta piccolina tutta in grigio, sua moglie. E finalmente Tamà. Gli sposi bevvero i vini mescolati e seguirono appuntino le istruzioni che il vecchio mezzano non aveva mancato di dar loro. Per un momento Aiwan si sentì inesplicabilmente solo, nonostante Tamà gli fosse accanto, ma quella era la Tamà silenziosa e dipinta che non conosceva. Della vera Tamà non aveva sentito la voce né aveva visto le fattezze da settimane. Dovette dirsi, sentendo contro la sua spalla rivestita di spessa seta, che era proprio lei e che solo piegandosi all'osservanza delle vecchie usanze egli l'aveva ottenuta. Il signor Muraki, infatti, non lo avrebbe mai accettato come genero se avesse fatto le cose a modo suo, sposando Tamà come gli sarebbe piaciuto di sposarla, semplicemente senza chiasso. No, il matrimonio per il signor Muraki riguardava la famiglia. Quando tutto fu finito, guardò i componenti del gruppo. Gente piccola, grave e cortese, schierata dietro il signor Muraki e sua moglie, zie, zii, cugini. Tutti lo guardavano, sorridenti, ansiosi e un po' timidi. Notò che si somigliavano tutti, persino Tamà, pensò, aveva il loro stesso aspetto. E quel pensiero gli parve di aver sposato non Tamà, bensì il Giappone. Un vago, penoso senso di aver tradito qualcosa o qualcuno lo prese, poi sentì il mezzano che gli toccava il gomito. Se volete ora mutarvi d'abiti, disse il vecchio col suo fare pratico, la sposa è quasi pronta, la macchina è alle porte. Quell'avvenimento lo richiamò alla realtà. Si ricordò di aver predisposto di passare la prima settimana di matrimonio di Tamà nel piccolo albergo sui monti, vicino alle fonti d'acqua calda. Nel felice stupore del momento si era scordato di quel che li aspettava, ma ora si volse non più turbato. La cerimonia nuziale era terminata e quando finalmente fosse rimasto solo con Tamà, il matrimonio sarebbe davvero cominciato. Quel pensiero soverchiò tutti gli altri, corse alla camera dell'albergo dove quella mattina aveva accuratamente sciorinato sul letto, prima di indossare gli abiti di cerimonia, il nuovo abito occidentale color blu scuro che si era comperato. Era di moda per uno sposo vestire all'occidentale. Tutto era nuovo, fin la cravatta rossa, anch'essa accuratamente collocata sul letto. Si mutò rapidamente d'abiti e, afferrato il cappello nuovo, scese a precipizio le scale. Tamà lo aspettava nella macchina, chiusa dalle tendine tirate. Qualcuno aveva aperto la portiera per lui, poi gliel'aveva sbattuta alle spalle e la macchina era partita con un grande scatto che li sospinse l'uno nelle braccia dell'altra. Tamà rise. Ad Aiwan quel riso diede un immediato, caldo senso della nuova realtà. Tamà! Esclamò. Lei si era tolti dal viso i segni rossi e bianchi e si era di nuovo pettinati i capelli lisci, indossava un semplice vestito verde e calzava scarpe di pelle. Mi riconosci? Domandò ancora ridente. Sì, quella era bene la sua faccia rosea e graziosa e lievemente abbronzata, la faccia di un tempo. Aiwan la strinse a sé, incapace di proferir verbo. E per la seconda volta sentì le sue forme, le forme robuste, un po' tarchiate ma ancora slanciate. Era la suprema realtà della vita, Tamà. Il suo dono era appunto quella sua forte realtà. Non usava profumi. Aiwan appoggiò una guancia alla sua e avvertì la lieve fragranza della carne di fresco lavata con sapone. Dai capelli sprigionava il semplice odore dell'olio di pino di cui si serviva nel pettinarsi. Tamà, sussurrò, mezzo soffocato dalla felicità, siamo proprio marito e moglie. Lei fece cenno di sì. Egli sentì la forza del suo cenno. Naturalmente, soggiunse poi con la sua grata voce di persona pratica. Egli non rispose. L'affermazione non le era uscita soltanto dalle labbra, egli la sentì anche nel fremito improvviso che le passò per il corpo. nel sangue acceso. Ora, Aiwan, disse severamente Tamà, giova che nel nostro matrimonio tu tenga costantemente presente una cosa, questa, che io sono una moga. Egli rise e lei lo guardò con un'espressione maliziosa negli occhi. Non mi credi? Domandò. Sì, credo, s'affrettò a dire Aiwan, credo tutto quello che mi dici di te. Ah, disse lei, questo si chiama cominciar bene. Di nuovo egli rise. Guardandola dal letto dove si era buttato, mentre lei si pettinava i lunghi capelli neri. Erano ancora lievemente umidi del bagno fatto in comune nella piscina d'acqua calda, nonostante ella avesse avuto cura di arrotolarseli sul capo per tenerli asciutti, ma in bagno avevano tanto riso e giocato, spruzzandosi abbondantemente a vicenda. Ora, rientrata in camera, egli aveva licenziato con impazienza la bagnina così da rimanere solo con Tamà. Sapeva che le ragazze ridevano, ma non gli importava. Aveva distribuito a tutte delle gran mance per far sì che stessero lontani gli altri bagnanti finché lui e Tamà avessero finito il loro bagno. Egli non le aveva detto nulla, ma prima di arrivare sul luogo si era ripetuto che mai avrebbe permesso a Tamà di bagnarsi in presenza d'altri. Era cinese lui. Ora Tamà, in piedi, completamente nuda, si pettinava all'indietro i lunghi capelli. Era la sua una nudità innocente e lui lo vedeva, innocente come quella della contadina che aveva incontrato quel giorno durante la gita con Bungì. Pareva che Tamà non avesse chiara coscienza della differenza che corre fra l'essere o il non essere nuda, e quella sua innocenza gli suscitava un vago sentimento di gelosia. Era troppo puerile. E pensare che Tamà sarebbe magari comparsa nuda davanti alla servitù femminile lo esasperava. Ma come spiegarle quel sentimento? Sapeva per istinto che lei non lo avrebbe capito. Fammi vedere il tuo polso, disse improvvisamente. Lei gli si avvicinò e gli tese il polso segnato da una lunga cicatrice ancora rossa. Egli se lo portò a una guancia. Le moga ricorrono spesso al taglio del polso per averla vinta? Domandò. Se mai in avvenire gli fosse toccato di sentire impazienza nei riguardi di Tamà, ma era impossibile essere impazienti con lei, gli sarebbe bastato, per calmarsi, guardare quel polso. Era questo il linguaggio più adatto per mio padre, disse tranquillamente Tamà. Quando mi segai il polso capii che facevo sul serio, che volevo sposare te. Bastava quello, pensò lui, per far felice un uomo, ma non si tenne per pago. Anche se ci fosse stata guerra tra i nostri due paesi, insistette carezzevole, mi avresti sposato, ne sono certo. Così dicendo, alzò gli occhi verso di lei, tenendole ancora il polso per vedere l'effetto delle sue parole, ma lei scosse il capo con un'espressione troppo candida per non essere creduta. No, non ti avrei sposato, Aiwan, disse. Se ci fosse stata guerra, avrei sposato il generale Sekhi, come ti avevo detto. Ad Aiwan pareva incredibile. Non ti posso credere, disse. Allora vuol dire che non capisci, rispose pronta lei. Se ci fosse stata guerra, Aiwan, non mi sarei appartenuta, ma sarei appartenuta alla patria. In tempo di guerra tutti apparteniamo alla patria. Ma il generale Sekhi non è mica la patria. La teneva ancora per il polso, ma stranamente gli parve che qualcosa fosse mutato. Perché se lo era tagliato? Un istante prima, guardando la cicatrice, il gesto di Tamà gli era parso di un eroismo patetico e ora. Sekhi è un prode generale, disse semplicemente lei, e l'imperatore si fida di lui. Diceva imperatore come avrebbe detto tutti gli dei. Di nuovo egli si sentì curiosamente geloso di qualche cosa che non gli riusciva di capire. Devi amare solo me, esclamò. Abbandonò il suo polso, si rizzò a sedere sul letto e le cinse la vita. Lei era in piedi ed egli, appoggiando il viso al seno morbido e fermo, avvertì il battito del suo cuore. Amo soltanto te, rispose con dolcezza Tamà, prendendogli il capo fra le mani. Amerò sempre te. Allora perché dici che se ci fosse stata la guerra, la mia decisione non avrebbe avuto nulla a che vedere col mio amore per te? Disse accarezzandogli lievemente i capelli. Aiwan, vedi. Come giapponese è il mio dovere. Ah, taci! Esclamò lui. Non voleva sentirla parlare di dovere. Io sono il tuo dovere, disse. Io, tu non hai altri doveri all'infuori di me. Le riafferrò il polso e passò la lingua sulla cicatrice. Con tutto l'essere ne sentì la leggera ruvidezza. «Non parlare», mormorò. Voleva essere nient'altro che senso. Nei sensi non c'era nulla che li dividesse. Il loro sangue scorreva insieme con ritmo uguale verso il medesimo desio. Quello e quello soltanto costituiva l'essenziale fra uomo e donna. E la obbedì senza proferir verbo, adattandosi a lui con movimenti e gesti delicati. E improvvisamente, a certo suo gesto, egli si ritrasse urtato. Era strano, ecco, che una fanciulla appena sposata sapesse come comportarsi in quella delicata situazione. Si ritrasse e balbettò qualche cosa. «Che cosa hai detto?» gli domandò lei. «Dico, come mai, sai?» Egli alzò gli occhi dalla sua positura giacente, occhi pieni di pura e innocente sorpresa. Mi hanno insegnato!» esclamò. «Una vecchia geisha mi ha istruita per incarico di mia madre!» Era così candida, così innocente che egli ne fu a un tempo affascinato e inorridito. Per un momento, rizzatosi di nuovo a sedere sul letto, fu dibattuto da opposti sentimenti, incerto su quale prevalesse. «Che cos'hai, Aiwan?» gli domandò lei. «E il tuo realismo?» balbettò Aiwan. «Mi fai paura!» Pensò, non capirà quello che voglio dire. Ma lei capì. E per un momento rimase a guardarlo, poi disse con il suo tono calmo e pratico: «Capisci la ragione, marito mio? Sarebbe ragionevole permettere che una fanciulla si sposi nella più completa ignoranza di quello che può piacere all'uomo che ama? Mi hanno insegnato a farti da sarta, a cucinare i cibi che ti piacciono, ad aver cura della tua casa e dei tuoi figli, e come non dovrei saper nulla del modo di amarti quando siamo soli. Ma sei il cuore della nostra vita, e quando il cuore è sano, tutto il corpo è pieno di salute.» Egli borbottò: «Ma è roba da cortigiana!» «Ti sbagli», s'affrettò a dire lei, abbandonando la sua mano. Si levò di scatto e afferrò la veste. Aiwan ora vide che l'offesa era lei. Quelle loro strane diversità, che cosa significava? Aiwan si ricordò della prima volta che aveva visto una donna in un bagno pubblico. Si ricordò del suo stupore e della frase con cui Bungee gli aveva detto che l'unico male consisteva nell'indiscreto guardare una donna nuda. Egli non aveva capito la frase, ma l'aveva accettata. Tamà intanto, decisamente discosta da lui, si stringeva forte la veste e poi l'alta cintola in piedi presso la finestra. Mentre compiva quella operazione con la schiena voltata, le sue mani tremavano. «Non è affatto roba da cortigiana», disse con voce improvvisamente quasi piangente. «Sono tua moglie io, quella che ti darà dei figli!» S'asciugò chetamente gli occhi con un lembo della manica e si aggiustò i capelli. Vista così, in piedi, con le spalle cascanti, gli apparve qual era. Una bambina che aveva fatto quel che le avevano insegnato. Una struggente tenerezza lo spinse impulsivamente verso di lei. «Devi perdonarmi», disse. «Te lo ordino», soggiunse. Ella si raddrizzò. «Non accetto ordini», disse senza voltare il capo. «Non sono forse una moga? Una moga non tollera ordini, nemmeno da suo marito. Del resto, voglio soltanto fare quello che a te piace.» Egli notò che le labbra le tremavano. Un'improvvisa allegria lo prese. Quella donna gli era cara, era la cosa per lui più preziosa del mondo. Non gli importava che fosse quella che era, né che avesse idee con tegno così strani. Sapeva soltanto che con tutto il suo essere la desiderava. «Vieni», le disse. Ella voltò il capo e salì con lo sguardo fino a incontrare il suo. Nel fondo dei suoi occhi egli vide un sorriso sorgere come un raggio di luce sull'acqua. Stette a guardarlo un momento e poi, senza dir motto, mentre lui aspettava, cominciò a svolgersi la fascia che poc'anzi si era strettamente avvolta attorno alla vita. Quando distoglieva i pensieri da lei era solo per innalzare di più nella sua anima la barriera eretta fra il mondo e loro. Egli si era staccato dal suo paese e, sposando Tamà, era riuscito in certo modo a staccare lei dal suo. Erano, insomma, due creature separate da tutte le altre, viventi una vita propria. Lui cinese e lei giapponese erano reciprocamente estranei. Il sangue dei loro antenati non era stato lo stesso sangue, le loro ossa medesime erano diverse. Aiwan era conscio, guardando il corpo di Tamae, il proprio, che la loro argilla non proveniva dalla stessa terra e che solo ora, per la prima volta, si mescolava. Il suo scheletro era snello e lungo, quello di Tamà corto e forte. Tamà non era grassa, ma non avrebbe mai potuto snellirsi fino a diventare come lui, ed egli l'amava proprio per quella terrosa qualità del corpo che a lui mancava, per quella semplicità che per altro verso lo faceva così spesso ridere. Tanto più l'amava per la sua semplicità in quanto era assillato dalla propria complessità. Egli non faceva nulla che non avesse potuto essere fatto in 10 modi diversi. Tamà, al contrario, faceva quello che doveva fare in un modo solo, nel modo che le era stato insegnato. Persino il suo orgoglio e quella sua vantata indipendenza non erano in realtà, così gli pareva, che una spinta ad agire con maggior determinatezza secondo gli insegnamenti ricevuti. E quando la prendeva in giro per questo, come aveva fatto la sera in cui, giunti all'albergo, l'aveva vista preparare la tavola nella loro camera, lei non capiva. Era l'ultimo giorno dei 7 che egli si era permesso per la luna di miele. Il giorno seguente sarebbero tornati a Nagasaki, dove Aiwan, in ottemperanza alle disposizioni del signor Muraki, avrebbe dovuto prendere il posto di Bungee. L'indomani si sarebbero insediati nella piccola casa che avevano scelto per nido, in un sobburbio sulla collina. E la serata quindi era un avvenimento, una festa. Tamà aveva ordinato una cena speciale. Quando arrivò, accostò la tavola alle finestre che si aprivano sulla vista della valle e dei colli. Laggiù scintillavano i lumi della costa. Lei non volle che egli l'aiutasse. No, no, sii buono, tocca a me disporre ogni cosa, Aiwan. Obbediente, egli rimase a guardarla seduto, non senza un intimo sorriso. Tamà era così seria, così indaffarata, tutti i particolari, anche quelli minimi, erano importanti. Per l'intero pomeriggio, durante una lunga passeggiata per i colli, ella era andata cercando certi fiori di campo coi quali comporre un mazzo per il festino. Rientrati, aveva dedicato un'ora al loro collocamento. Tamà era difficile, buona parte della raccolta era stata scartata e il resto, beh, era stato meticolosamente sforbiciato in religioso silenzio. Quando tutto fu in ordine, su via, esclamò allegramente, ora baldoria. Ma tu, a modo tuo, la baldoria l'hai già fatta, Tamà, disse lui ridendo. Ti ho seguita con gli occhi durante le tue operazioni e te la sei proprio goduta. Dall'altra parte del minuscolo e basso tavolino al quale erano seduti, sulle soffici stuoie, lei lo guardò sorpresa. Che cosa vuoi dire? Domandò. Facevo soltanto quello che doveva essere fatto. No, quello che ti piaceva fare, la corresse con dolcezza lui. Credi sia necessario dilungarsi come ti sei dilungata? Nel tempo in cui tu aggiustavi i fiori avremmo potuto finire di cenare. Ma che cosa dici, Aiwan? La voce di lei era sinceramente addolorata. Ma c'è una regola per tutti gli atti della vita, anche per i più insignificanti. Sai, a me hanno insegnato come si scopa una stanza, secondo una tecnica che non è quella del semplice e comune scopare, ma come si serve il tè, come moga, moga, la canzonò lui. Ella si interruppe. Vuoi dire che per essere una vera moga? Si interruppe ancora, poi balbettando. Non conta, forse hai ragione, disse molto lentamente. Io sono davvero piuttosto all'antica, è vero, forse lo sono di più di quanto penso. Egli s'avvide che l'aveva offesa, che le aveva tolto la gioia di quel suo grazioso armeggiare e si odiò. No, no, insistette. A me piace come tu fai. Non te la prendere se un pochino ti canzono, cara, ma non lo farò più. Boh, canzonami pure se ti piace, disse pronta lei. Imparerò anche ad essere canzonata. Disse quelle parole con una gravità così toccante che egli avrebbe voluto abbracciarla. Ma entrava una cameriera col pesce e si trattenne. Subito Tamà si dimenticò della discussione. Aiwan, ecco il pesce, l'ho scelto io oggi. Ma Deve piacerti, caro, perché è un bel pesce ed è stato cucinato secondo una ricetta che ho dato io stessa al cuoco. Oh, mi piacerà, promise lui, ed è bello davvero. Ella sezionò il pesce con un paio di bastoncini d'argento e riempì il piatto che gliele porgeva. Ritirandolo, Aiwan la guardò. Prendo tutto quello che mi dai, disse. Ella arrossì ed egli notò, o gli parve di notare, un'espressione inquieta nei suoi occhi. Ma tu sai che io voglio darti soltanto quello che tu vuoi, disse. Lo so, ribatté lui. Lo vedeva bene, doveva agire delicatamente con lei. Ella era antica e moderna, bimba e donna insieme, e a volta doveva trattarla secondo i molteplici aspetti della sua natura. Ora Tamà rideva. Parlarono di bugie e di come gli sarebbe piaciuto quel festino, del perfetto affiatamento che avevano con lui. Dov'era adesso? Sapevano soltanto che era in qualche luogo in Cina. Tama disse: Parlami della Cina. Somiglia al Giappone? Aiwan scosse il capo. Sì, cioè, no, non saprei, ma non le somiglia troppo. Pensò alla netta differenza razziale fra il corpo di Tama e il suo. Quella diversità gli pervadeva pensieri e sensibilità e sarebbe certo stata ancora fonte di attriti fra di loro. Aspettò che Tamà gli facesse altre domande, ma invece ella tacque. S'alzò e spense tutte le luci meno una. La cameriera, portati via gli ultimi piatti, aveva servito loro dell'altro tè. Tamà prese la sua tazza e gli si sedette al fianco, ora che il festino era finito. Aveva dimenticato la Cina e non le importava di sapere com'era o come non era. Guardava verso le montagne ora, con un'espressione piena di pace e di benessere. Egli la imitò e per un po' tacquero. In quella silenziosa quiete tutte le differenze svanirono, erano semplicemente due creature, l'una a fianco dell'altra, marito e moglie. Quella unione dell'uomo con la donna era la cosa più profonda della vita, quel suo matrimonio non faceva più paura dai Wan. Si sarebbe abbandonato adesso, era il suo unico modo. Egli non aveva un mondo dove condurre Tamà, ma sarebbe entrato per quanto possibile nel mondo di lei. Certo, tuttavia, il mondo vero sarebbe stato quello che essi avrebbero saputo creare, un mondo nuovo. Respinse quella frase con una fitta dell'antico dolore. Quello che lui e Tamà avrebbero creato sarebbe stato appena un frammento, grande appena per essi e i loro figli. I figli e figlie che sarebbero stati, come loro, privi di patria. Il loro bisogno di un focolare, dell'asilo, delle mura domestiche, sarebbe stato tanto più vivo e assillante, e per la prima volta gli balenò ora l'idea che i suoi figli e le sue figlie forse non gli sarebbero state grate della paternità. Forse avrebbero preferito essere figlie e figli di un vecchio generale giapponese. A Shanghai, ricordava, c'erano dei sangue misto che non contavano nulla, ma la loro era una semplice miscela intollerabile di giallo e di bianco. I figli suoi e di Tamà almeno non sarebbero stati come quelli. Tamà, esclamò, a che cosa pensi? Un bisogno improvviso di sentire la sua voce lo prese. Penso alla nostra casa, rispose con dolcezza lei. Penso a come disporre tutte le nostre cose. Ah, potessimo non mai scendere da questo monte, esclamò Aiwan con trasporto. È stato per noi un rifugio ideale. Siamo stati insieme così soli come se non esistessero altri al mondo. E dicendo quelle parole, gli parve di essere come in un'isola di pace, sovrastante il mondo in perpetuo affanno laggiù. Vivere sempre sulle cime di un monte non mi piacerebbe, disse Tamà, è troppo difficile. Difficile? Difficile procurarsi carne, legumi, combustibile e tutti i generi di quotidiana necessità. Ah, disse Aiwan, soprapensiero, certo, hai ragione, sarebbe difficile. Le cose di tutti i giorni, non se n'era ricordato.